voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ecco, contessa. Un'altra bottiglia? Sì, prego. Riparte da 46 metri la Serbelloni Mazzanti, viene dal mare. Capovaro, riposso andare? Rivadi, contessa, ma più centrale. Fantozzi questa volta preferì attendere in acqua la conclusione della cerimonia. Capovaro! Riprovo! Rivadi, contessa, ma un po' più a destra! Qui lo raggiunsero nell'ordine. Sindaco con fascia tricolore. Ministro della Marina Mercantile. 102enne baronessa Filiguelli de Bonchamp, mascotte a vita della società. Tutte le autorità vennero poi furtivamente varate a parte. Shows. She's looking over a lot, and he's still in his work clothes. You can't talk to members of the opposite sex. He starts to talk, they start to look perplexed, and with his eyes on the prize and just a glance at her breasts, he walks over and he says, it's a comfortable all night to sit, get on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Got on the dance floor, it's a direct hit. Why's that cigarette unlit? Got on the dance floor, it's a direct hit. What's wrong? Scared to commit? Got on the dance floor, it's a direct hit. Her friends are leaving. She decides she's not going. She's been looking over a lot. Hopes it's been shown. She can't talk to members of the opposite sex. She starts to talk, they start to look perplexed, and with her eyes on the prize and just a glance at her breasts, she goes over and she says, it's uncomfortable all night to sit. Got on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Got on the dance floor, it's a direct hit. What's wrong? Scared to commit. Get on the dance floor, it's a direct hit. I don't care that your friends have split. Get on the dance floor, it's a direct hit. Here comes the really good bit. Get on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Get on the dance floor, it's a direct hit. It's uncomfortable all night to sit. Get on the dance floor, it's a direct hit. Why's that cigarette unlit? Get on the dance floor, it's a direct hit. I don't care that your friends have split. Get on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Got on the dance floor, it's a direct hit. What's wrong? Scared to commit? Got on the dance floor, it's a direct hit. It's uncomfortable all night to sit. Got on the dance floor, it's a direct hit. Cosa Nostra è strutturata in modo analogo ad un qualunque governo o grosso gruppo industriale, o in poche parole, gruppo di gangster. In cima alla scala gerarchica sta il boss dei boss, che è il capo di tutti i capi. Le riunioni si tengono nella sua casa ed egli è ritenuto responsabile dell'approvvigionamento dei salatini e dei cubetti di ghiaccio. Il mancato adempimento a tale compito significa la morte immediata. La morte, detto per inciso, è una delle cose peggiori che possono capitare ad un membro di Cosa Nostra, per cui molti preferiscono pagare semplicemente una multa. Sotto il capo dei capi stanno i suoi luogotenenti, ciascuno dei quali governa una zona della città con la sua famiglia. Le famiglie della mafia non consistono di una moglie e figli che vanno sempre in posti come il circo equestre o le feste parrocchiali. Esse sono gruppi di persone piuttosto serie, la cui maggiore soddisfazione nella vita consiste nel vedere quanto taluni possano restare sotto la superficie dell'East River prima di incominciare a gorgogliare. Il rito di iniziazione alla mafia è alquanto complesso. Ogni nuovo membro viene bendato in modo da non poter vedere nulla ed accompagnato in una stanza buia. Nelle sue tasche vengono introdotti pezzetti di melone e gli viene ordinato di saltare tutto intorno su un piede solo gridando «Cucù, cucù!». Dopodiché tutti i membri del consiglio o commissione gli tirano a turno il labbro inferiore e poi glielo lasciano schioccare all'indietro. Qualcuno di essi può farlo anche due volte. Successivamente gli vengono sparsi sulla testa dei grani di avena e se protesta viene squalificato. Se però egli esclama «Oh, come mi piace l'avena sulla testa!», gli viene dato il benvenuto nella confraternita. Ciò avviene tramite il bacio sulla guancia ed una stretta di mano. E da quel momento in poi gli è proibito mangiare salsa piccante, divertire gli amici imitando il verso della gallina e ammazzare chiunque si chiami Vito. Questo era ancora uno sguardo sulla malavita organizzata, da Saperla Lunga, di Woody Allen. È stata un'apertura molto ritmata, molto veloce, quella di Eclettica, di questa seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, tutti i giorni, ve lo ricordo, fra le 19 e le 20. Ritmata grazie agli Art Brut, prima con Indirect Hit e poi con i Frog Eyes e la loro Idol Songs. Per proseguire non rallentando di troppo, succederà più avanti nel corso di questa seconda parte, di andare su atmosfere sicuramente più delicate, grazie ad un progetto che... è falso da tutti i punti di vista. Sembra delle Hawaii, ma non è delle Hawaii. Sembra un gruppo, ma non è un gruppo. Infatti è un progetto che proviene dalla città di Seattle, quindi tutt'altro clima. Si chiamano The Thieves of Kailua e The Thieves of Kailua è anche il brano che vi state per ascoltare. Però non sono un gruppo, sono il progetto solista del produttore di Seattle di nome Jason Holmstrom, nome che sono sicuro qualcuno di voi conoscerà. Per gli altri ci sono sempre i motori di ricerca. Got my camera, got Finita la riserva di champagne, fu deciso di cambiare il rituale della cerimonia. Taglio di un cavetto metallico che avrebbe messo in moto il meccanismo del varo. Riparte da 76 metri, lo cervelloni mazzanti vien dal mare. Vadi, vadi, contessa! Taglio! In nome di Dio! Cignolo netto dell'arcivescovo con anello pastorale! Porcaccia di quello! La nave fu poi varata nel tardo pomeriggio, quando si fu placata la furia omicida del porporato. Gentle grace, sweet vanished pleasure. Oh, you kill me silently, pretending innocence, but silently kill. Rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh song, cold, cold, cold, silently, in a dear embrace. Come to my heart, take lilies from my grave. On a fine sunny day. Gentle grace, sweetheart infliction. Oh, sick beans in a yellow sun, protesting innocence, but suddenly killed. La malavita organizzata è una vera piaga per il nostro paese. Mentre molti giovani americani sono spinti alla carriera criminale, dalla promessa di una vita facile, la maggior parte dei gangster è costretta a sgobbare per lunghe ore, spesso in ambienti privi di aria condizionata. Identificare i criminali è un dovere che spetta a ciascuno di noi. Usualmente costoro si riconoscono dal fatto che portano grossi gemelli ai polsini e perché non smettono di mangiare neppure quando il tizio seduto al loro fianco viene colpito da un'incudine che piomba giù dall'alto. I metodi migliori per combattere la malavita organizzata sono 1. Far sapere ai criminali di non essere in casa. 2. Chiamare la polizia ogni qualvolta un insolito numero di uomini della Società Siciliana di Lavanderia si mette a cantare in coro nel vostro vestibolo. 3. Porre il telefono sotto controllo. Non si può ricorrere indiscriminatamente al controllo degli apparecchi telefonici, però l'efficacia di tale sistema è illustrata dalla registrazione di questa conversazione, intercorsa fra due capi gang della zona di New York, i cui telefoni erano sorvegliati dall'FBI. Anthony. Pronto? Rico? Rico. Pronto? Anthony. Sei tu, Rico? Non ti sento. Rico. Non riesco a sentirti. Anthony. Rico? Rico. Cosa? Anthony. Mi senti? Rico. Pronto? Anthony. Rico? Rico. C'è un pessimo collegamento. Anthony. Mi senti? Rico. Pronto? Anthony. Rico? Rico. Pronto? Anthony. Centralino, c'è un pessimo collegamento. Centralino. Riagganci e faccia di nuovo il numero, signore. Rico. Pronto? Sulle basi di queste prove, Anthony Rotunno, detto il pesce, e Rico Panzini furono arrestati ed attualmente stanno trascorrendo 15 anni a Sing Sing per detenzione illegale di detersivo biologico supercandeggiante. Questo era ancora Uno sguardo sulla malavita organizzata da Saperla lunga di Woody Allen. Seul. pochissimi minuti dalla chiusura di Eclettica anche per quanto riguarda quest'oggi. Giulio Caperdoni vi ricorda l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com per mantenere il contatto nel caso vogliate scrivermi direttamente, ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica, ovvero sia la mailing list grazie alla quale ottenete settimana per settimana la playlist, cioè l'elenco di letture, film e canzoni che compongono Eclettica. Ci siamo appena ascoltati l'artista francese di nome Valérie Loliot e chiudiamo invece con questa prova un po' particolare dei TV on the Radio. Hospital corners. Me, I. When my mama said, "What'd you do today?" I said, "Mama, myself, where I can dream. Never ever have to wake up. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 42, volume numero 3, indice. Venus, Elk City, Maritime, Amina, Vittorio Cane insieme a Mao, Kevin Drew, Art Brut, Frog Eyes, The Thieves of Kailua, Juan Mordecai, Valérie Loliot, TV on the Radio. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, su Rock FM.